Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Masha si trovava in casa quando Herman arrivò. A quanto pareva era di buon umore. Si tolse di tra le labbra la sigaretta e lo baciò sulla bocca. Dalla cucina gli giunsero i suoni sibilanti dei cibi che cuocevano. Sentì odore di carne trita, d'aglio, di borscht, di patatine novelle. Entrare in quella casa destava invariabilmente il suo appetito. Madre e figlia non facevano che cucinare, cuocere al forno, maneggiare pentole, tegami, salare, lavorare la pasta. Tutto ciò gli ricordava la casa dei suoi genitori a Chivkav. Il sabato Shifrapua e Masha preparavano sholent e kugel. Forse perché egli viveva con una gentile, ma Masha si accertava che le candele del sabato fossero accese, che il calice della santificazione fosse lucidato e la tavola apparecchiata secondo le leggi e le costumanze. Shifrapua si consultava spesso con Herman sulle norme religiose concernenti il vitto. Le era capitato per caso di lavare un cucchiaio del latte insieme a una forchetta per la carne. La cera di una candela era gocciolata su un vassoio. La gallina non aveva la vicenda della fiel. Per quanto concerneva quest'ultimo problema, Herman ricordava di aver risposto: assaggia il fegato e vedi se è amaro. Sì, è amaro. E allora se è amaro è kasher. Herman stava mangiando le patate quando Masha gli domandò del parente che si era posto in contatto con lui. Per poco egli non si strozzò con il boccone che aveva in bocca, non riusciva più a ricordare il nome datole per telefono, in ogni modo prese a parlare, assuefatto com'era, a improvvisazioni del genere. «Sì, sì, non sapevo nemmeno io che questo mio parente fosse ancora vivo. È uomo o donna?» «Te l'ho già detto, è uomo. Tu la dici tante di cose. Chi è? Da dove viene?» Il nome che aveva inventato gli tornò in mente, Feivel-Lemberger. «E in che modo ti è imparentato?» «Dalla parte di mia madre.» «Come?» È il figlio del fratello di mia madre. Come mi hai detto tua madre, Lemberger? Mi sembra che una volta tu mi abbia fatto un altro nome. Ti sbagli. Hai detto al telefono che era un uomo sulla sessantina. Come puoi avere un cugino così anziano? Mia madre era la più giovane, mio zio aveva 20 anni più di lei. E come si chiamava tuo zio? Tuvie. Tuvie? Quanti anni aveva tua madre quando morì? 51. Tutta questa storia puzza! Si tratta di qualche tua amichetta di un tempo. Sentiva a tal punto la tua mancanza che ha messo un annuncio sul giornale. Perché lo hai strappato? Ah, avevi paura che vedessi il nome e il numero di telefono? Bene, io ne ho comprato un altro. Telefonerò subito e scoprirò la verità. Questa volta ti sei impiccato con la tua stessa cintura, disse Masha. Aveva dipinti sulla faccia odio e soddisfazione. Herman scostò il piatto. Perché non telefoni immediatamente? E non la fai finita con questo ridicolo controinterrogatorio? Avanti, avanti, fa pure! Forma il numero! Mi hai seccato con le tue accuse infami! L'espressione di Masha mutò. Telefonerò quando ne avrò voglia. Non lasciar raffreddare le patate. Se non hai nessuna fiducia in me, allora tutta la nostra relazione è priva di senso. È priva di senso. E come? Mangia le patate, ad ogni modo. Se è il nipote di tua madre, perché ti sei riferito a lui come a un lontano parente? Tutti i parenti sono lontani per me. Hai la tua sciccia, ahimè, ma spunta fuori qualche sgualdrinella dall'Europa e tu mi pianti in asso per precipitarti da lei. Una sgualdrina come quella lava anche la sifilide. Shifrapua venne a tavola. Perché non lo lasci mangiare? Mamma, non intrometterti! Non mi sto intromettendo. Le mie parole non valgono niente per te. Quando una persona sta mangiando, non bisogna infastidirla con lamentele. So di un caso in cui qualcuno, che Dio ci protegga, morì soffocato. Tu scodelli sempre un episodio per tutto. Lui è un bugiardo, un ipocrita. Ed è anche troppo stupido per riuscire a farla franca, disse Masha, in parte a sua madre, in parte a Herman. Herman prese una patatina con il cucchiaio. Era tonda, novella, umida di burro, cosparsa di prezzemolo. Stava per mettersela in bocca, ma si fermò. Aveva ritrovato sua moglie, ma perduto l'amante. Era questo il tiro tenutogli in serbo dal destino. Sebbene avesse provato e riprovato con cure particolari di quanto avrebbe detto a Masha del suo parente, la memoria adesso si rifiutava di funzionare. Tagliò in due la tenera patatina con l'orlo del cucchiaio. «Dovrei dire la verità», domandò a se stesso, ma non vi fu alcuna risposta. Com'era strano che, nonostante lo sgomento, Herman si sentisse calmo. Si trattava della rassegnazione di un criminale colto con le mani nel sacco e pronto ad accettare il castigo inevitabile. «Perché non telefoni, Masha?» «Mangia, ora ti porto le polpette». Mangiò le patate e ogni boccone lo colmò di energia. Non aveva pranzato e si sentiva svuotato dagli avvenimenti della giornata. Pensò a se stesso come a un prigioniero intento a consumare l'ultimo pasto prima dell'esecuzione. Masha avrebbe saputo presto la verità. Senza dubbio sarebbe stato licenziato da Rabbi Lampert. Gli rimanevano in tasca soltanto $2. Non era in grado di chiedere l'indennità di disoccupazione. La sua doppia vita avrebbe potuto essere rivelata. Che genere di lavoro avrebbe potuto trovare? Era incapace di trovare un posto anche come lavapiatti. Masha gli servì un budino e una composta di mele con il tè. Herman aveva stabilito di lavorare al manoscritto del rabbino dopo cena, ma sentiva un peso allo stomaco. Quando ringraziò madre e figlia per il pasto, Chifrapua disse: «Perché ringraziare se non mi muore? Ringraziare tu lui, lassù». Portò a Herman una scodella d'acqua nella quale lavarsi le dita e uno zucchetto perché potesse recitare la benedizione. Herman farfugliò il primo verso della benedizione e andò in camera sua. Masha riempì d'acqua il lavandino per lavare i piatti. Fuori c'era ancora luce e a Herman parve di udire uccelletti cantare sull'albero del cortile, ma quelle non erano le voci dei passeri che cinguettavano di solito tra i rami. Si trastullò con la riflessione che potessero essere gli spiriti degli uccelli di un'altra epoca, anteriore ai tempi di Cristoforo Colombo o anche di un'era preistorica, i quali si ridestavano e cantavano verso sera. In camera sua, la notte, aveva trovato spesso scarafaggi così enormi e strani da stentare a credere che potessero essere il prodotto sia di quel clima sia dei tempi presenti. La giornata sembrava a Herman più lunga di qualsiasi altro giorno d'estate che riuscisse a ricordare. Rammentò le parole di David Hume, secondo il quale non esisteva alcuna prova logica del fatto che il sole sarebbe spuntato di nuovo la mattina successiva. In tal caso non esisteva neppure la garanzia del fatto che il sole sarebbe tramontato quella sera stessa. Faceva caldo. Si domandava spesso come mai la stanza non si incendiasse con una temperatura così elevata. Nelle serate particolarmente afose immaginava fiamme prorompere dal soffitto, dalle pareti, dal letto, dai libri, dai manoscritti. Si distese sul letto, ora appisolandosi, ora cogitando. Tamara gli aveva chiesto l'indirizzo e il numero di telefono, ma per tutta risposta lui si era limitato a dirle che le avrebbe telefonato la sera dopo. Che cosa volevano tutte quante? Dimenticare per qualche tempo la loro solitudine e l'inevitabilità della morte. Povero e indegno come egli era, alcune persone continuavano a dipendere da lui, ma era Masha a rendere significativa ogni cosa. Se ella avesse dovuto lasciarlo, allora Tamara e Jadwiga non sarebbero divenute altro che fardelli. Si addormentò e quando si destò era sera. Nell'altra stanza udì Masha parlare al telefono. Stava parlando con Reb Avram Nissen Yaroslaver o con Tamara? Herman tese l'orecchio. No, stava conversando con l'altra cassiera del ristorante economico. Dopo pochi minuti entrò nella stanza e gli parlò nella semioscurità. Dormi? Mi sono svegliato adesso. Ti corichi e ti addormenti immediatamente, devi avere la coscienza tranquilla. Non ho assassinato nessun uomo. Si può assassinare anche senza un coltello, disse. ma un parente. Continuo a guardarti e non riesco a credere che sei proprio tu, disse. Non posso permettermi di credere a niente. Tutto.